Zot. Fulminati in azienda. E i centri, hai letto i giornali? Il Corriere di Zot dice che taglieranno metà di noi manager. Sarebbe un disastro. Lascia perdere che c'ho l'ernia iatale che mi sta a far male. Sta cosa mi sta stressando malissimo. Ma non se la prenderanno mica con me. Poi chi gliela fa la grafica delle slide coordinata con il tono delle convention? Sai che dove la trovano una art communication manager che coniuga l'estetica con il business? A fonte, visto che sei inutile te tengo, non l'hai capito come funziona? Ma cosa dici? Tu piuttosto, l'hai preparato il curriculum? Sì, il curriculum vitae, così io mando in allegato con la gastroscopia. Allora Paragone, tu che sei il nostro super consulente, mi spieghi come mai il concorrente mette sul mercato l'offerta pronto subito e noi replichiamo 6 mesi dopo con l'offerta pronto prima? Ma siamo delle lumache, dei bradipi. Secondo me siete troppo lenti, siete, se mi permette la metafora, dei bradipi, sì, dei bradipi. Bravo consulente, è che qui per prendere una decisione ci vogliono mesi, troppe persone coinvolte, troppi capi, capelli. Siete troppi capi. Bravo, ma vedi che mi togli le parole di bocca. Io sai cosa penso, bisognerebbe forse snellire il personale. Sfoltire il personale, snellire. Bravo, tagliamo, andiamo a prenderli a uno, non so, la porta, responsabile delle relazioni istituzionali. Ma che cosa fa a parte pranzi, cene, ospitate varie? Forse ad uno le andiamo. Uno a uno, bisogna tagliargli uno a uno. Secondo me il solito consulente samurai, il vero esperto di tagli, Akazu-kan, ci può aiutare. Ecco, sentiamolo questo piano. Buongiorno Akazu, allora dai che il tempo è denaro, dai Akazu. Dice che darebbe prima una sfoltatina in alto ai dirigenti, a partire da quelli come la porta. Ma bravo anche a caso, bravo! Poi andrebbe con la mannaia, i livelli bassi più o meno indistintamente. Ma sì, bravo Akazu, snellire il sottobosco, va ripulito, via i muschi di chi... ma come la chiamiamo questa strategia di riduzione del personale? Come la chiamiamo? Non so, chiediamolo ad Akazu, come la chiamiamo? Dokoyoko. Mi piace. Dottor Laporta? Ma prego, carissimo, c'è pure il giapponese, l'amico giapponese. Certo. Ma lo vuole un cioccolatino. Grazie, dottor Laporta. Il consulente samurai vuole farsi una chiacchieratina con lei. Cosa lunga è? Dice se lei, come dirigente di questa azienda, ci racconta cosa ha fatto di utile negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni, guardi, io mi occupo, come lei sa, degli affari legali e delle relazioni istituzionali. Ma basta che chieda in giro e tutti sanno chi è il dottor Laporta. Ad esempio, ci ha parlato con il consiglio di amministrazione. Dice se è vero che suo cognato è diventato direttore del call center e che suo nipote è l'assistente del presidente. Certo, bravi ragazzi sono, preparati. E d'altronde, se non si fa spazio alla nuova generazione. Senta, gli piace il golf. Ma perché non ci andiamo a fare 2 swing con l'onorevole domani mattina? Minchia, mi ha tagliato la piantina di fico d'India. Allora, super mega consulente, abbiamo la nuova organizzazione pronta, eh? Ci siamo finalmente liberati di Laporta? Chiedo scusa. Pronto? Oh, onorevole, buongiorno, che piacere sentirla. Ci mancherebbe altro, dica. Laporta? No, sicuramente un misunderstanding, non si preoccupi, ma ci mancherebbe. Saluti la signora, a risentirci. Scusate, mi avete tagliato la porta. Dice che è il primo che deve essere licenziato, non fa niente dalla mattina alla sera. Ho capito, dai, però voglio dire, con tutta la gente che non fa niente dalla mattina alla sera, proprio la porta andiamo a toccare qui da anni, con noi da una vita. Ora, in quest'ottica, se mi permette, le consiglierei di farlo vice direttore. Vice direttore? Ma ad oggi, scusi, quanti ne abbiamo di vice direttori? 13. Ah, e allora facciamo il 14esimo, che peraltro il 13 porta sfiga. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.